Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow of Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. Quinta puntata. Incontrai Nick a Londra 17 anni dopo. Il giorno prima della partenza di Robbie per Boston, Ayla combinò di far visita a Mrs. Price. Ero entusiasta. Fin dal giorno del mio arrivo a Londra, 4 settimane prima, avevo intenzione di andarla a trovare, ma non avevo ancora trovato il coraggio di farlo da solo. Ayla e Robbie vennero a prendermi all'ostello degli studenti indiani a Bloomsbury, dove abitavo temporaneamente. Arrivarono tardi nel pomeriggio. Io ero nella sala da pranzo. Bevevo tè e mangiavo dam aloo e puri, ascoltando uno studente barbuto, leader di Allahabad, che stava facendo la campagna per l'elezione del presidente dell'Unione degli Ostelli. Nel momento stesso in cui vidi entrare Ayla, capii dal modo in cui stringeva le labbra e le luccicavano gli occhi che nascondeva un segreto. Tuttavia, quando le chiesi di che cosa si trattasse, lungo la strada verso la metropolitana di Goodge Street, scosse la testa e affrettò il passo. Soltanto quando il segnale rosso della stazione di Mornington Crescent scomparve al di là del mio finestrino, come una carta celata nel palmo della mano, Ayla svelò la sorpresa che teneva in serbo. «Sapete chi ci sarà ad attenderci al nostro arrivo?» «May?» chiese Robbie. «No, non May», rispose Ayla. «May è in tournée. E allora chi? Forza, ora devi dircelo!» «Nick!» disse con gli occhi scintillanti. «Nick Price! Non lo vedo da almeno 10 anni. Era un foruncoloso giovanotto 19enne allora e io ero una bellezza con i denti sporgenti e l'apparecchio. Pensavo che fossi in Kuwait», disse Robbie, «ad arricchirsi facendo il contabile o cose del genere». «Infatti», disse Ayla, «è stato via per molto tempo ma è tornato inaspettatamente 2 settimane fa, non so perché. Mrs. Price non mi ha detto molto». Guardò fuori le neri pareti del tunnel, sorridendo tra sé e sé. «Vi propongo una cosa», aggiunse quasi subito. «Dopo che avremo fatto visita a Mrs. Price, vi inviterò nel mio ristorante indiano preferito, un piccolo locale bangladeshi. Possiamo dirlo anche a Nick, forse gli andrà di venirci». Lo riconobbi, appena lo vidi, all'estremità del binario, in piedi, sotto uno dei cartelli indicanti l'uscita. Indossava un abito blu, una classica cravatta a righe e un soprabito scuro. Sulle prime mi sembrò molto alto e robusto, proprio come lo avevo immaginato. Quando però lui e Robbie si incontrarono e si strinsero la mano, mi resi conto di essermi sbagliato. I miei occhi erano stati ingannati dalla falsa prospettiva del lungo binario diritto. Notai che la sua robustezza era dovuta soprattutto allo spessore del cappotto e che la sua testa, come la mia, non andava oltre la spalla di Robbie. Quando si rivolse a Ayla tendendole la mano, mi chiesi se sembrasse più vecchio della sua età a causa del viso bruciato e indurito dal sole del deserto, ma la ragione era un'altra. C'era in lui una precoce gravità, leggermente sospettosa, che gli faceva stringere gli occhi in un'espressione giudicante mentre parlava, simile a quella di un banchiere che abbia visto finir male troppi buoni affari. Di fronte alla sua mano tesa, Ayla scoppiò a ridere, poi si alzò sulle punte dei piedi, gli buttò le braccia al collo e lo baciò sulla bocca. Nick arrossì e rise a sua volta timidamente e il suo viso si distese di colpo. Abbracciandola, se la strinse al petto e mentre la baciava I capelli gli caddero sugli occhi proprio come nella descrizione di Ayla in quel mattino di ottobre di tanto tempo prima. Così, quando si avvicinò a me, spingendo i capelli all'indietro e dicendo: «Che piacere conoscerti. Ho sentito tanto parlare di te, da mia madre, da me, da tutti». Che cosa potevo rispondere? Dissi: «Non è la prima volta che ti vedo. Sono cresciuto insieme a te». Fu colto alla sprovvista. «Deve essere stato piuttosto complicato», replicò seccamente, «dal momento che io sono cresciuto qui, nel vecchio West Hampstead, suburbano e monotono». «Anch'io conosco da molto tempo le strade qui intorno», dissi io. Poi cominciai a dimostrarglielo. Quando uscimmo dalla stazione della metropolitana, li trattenni e indicai la strada davanti a noi. «Dal momento che questa è West End Lane», spiegai, «quella laggiù deve essere Sumatra Road. Dunque, su quell'angolo doveva esserci il rifugio antiaereo, quello in cui si precipitarono la madre di Robbie, tua madre e lo zio, tornando da Mill Lane, quando una di quelle enormi bombe ad alto potenziale esplose proprio sopra Solent Road, appena svoltato l'angolo, distruggendo la maggior parte delle case laggiù. E quella casa, quella proprio in fondo alla strada, all'angolo con Leamington Road, so come si chiama Leamington Mansions. Ci cadde sopra una bomba e due piani andarono distrutti. Avvenne il 1 ottobre del 1940, 2 giorni prima che vostro zio morisse». Nick Price mi guardò con educata incredulità. Si girò verso Ayla e presero a camminare davanti, escludendomi. Robbie si mise al mio fianco e, ficcandomi le dita fra le costole, mi disse di non fare lo spaccone. Non sapevo che i tedeschi non avevano costruito bombe di grosso calibro se non molto più tardi, durante la guerra. Nel 1940 non possedevano bombe così potenti da demolire un'intera strada. «Ma è andata così», dissi io. «E tu come lo sai?» disse Robbie. «Perché me lo raccontò Tridib». «E lui come lo sapeva? Era soltanto un bambino di 9 anni. Ogni più piccola esplosione doveva sembrargli un terremoto». «Stammi a sentire», replicai. «È andata proprio così». «Ok», disse Robbie. «Dal momento che sei tanto sicuro, andiamo a dare un'occhiata a quella tua strada e vediamo com'è ora». «Va bene», dissi e gridai a Nick e Ayla. «Noi andiamo a dare un'occhiata a Solent Road, dove cadde la bomba». Ayla era impaziente. «Tu e le tue stupide bombe», disse. «Siamo già in ritardo, sbrigatevi, vi aspettiamo all'angolo». «Solent Road è laggiù», disse Nick ridendo. «Facci sapere se l'hai trovata rasa al suolo dalle bombe». C'era bisogno che mi dicesse dov'era. Lo sapevo già. Avevo una mappa disegnata in testa, giù per Sumatra Road, la quarta a destra. «Eccoci», disse Robbie quando ci arrivamo. «Ecco la tua strada bombardata». Era una via corta, fiancheggiata da alberi e cespugli su entrambi i lati. Gli alberi erano di un pallido verde mielato, il colore della vegetazione in Inghilterra, ma ancora più dolce ora, quasi dorato nella luce intensa del pomeriggio. Le case di mattoni rossi erano assolutamente identiche sui due lati della strada, i tetti di tegole molto spioventi e i telai bianchi delle finestre e delle porte, ciascuna con il suo fazzoletto di giardino protetto da una siepe. Sui due lati della strada erano parcheggiate file di piccole auto. Proprio vicino a noi c'era una modesta Citroën blu con un adesivo attaccato sul parabrezza che diceva «Salviamo le balene». Sul sedile posteriore c'era un mucchio di bottiglie verdi di una strana forma e lì accanto una specie di strapuntino di plastica fissato allo schienale. D'un tratto mi ritrovai assorto negli aggeggi legati alla vita di chi usava quell'automobile. «E quelle sono bottiglie di vino?» chiesi a Robby. «No, stupido!» Robby si mise a ridere. «Sono bottiglie d'acqua minerale!» «E quello cos'è?» chiesi indicando lo strapuntino di plastica. «È un seggiolino da bambini!» Robby cominciava a spazientirsi. «Non ne hai mai visti, è per la sicurezza del bambino dentro l'auto!» Non riuscivo a distogliere lo sguardo della Citroën. «Dai, piantala con questa maledetta automobile», disse Robby. «Diamo un'occhiata alla tua Solent Road bombardata». Alzai lo sguardo verso le case silenziose e piene di garbo di quella strada tranquilla. Colsi un'occhiata di Robby e scoppiammo a ridere tutti e due. «Non è esattamente quello che ti aspettavi», disse Robby. Non glielo confessai allora, ma si sbagliava. Non mi ero aspettato di vedere quello che aveva visto 3D, naturalmente no. Non mi ero aspettato di vedere pietre e pezzi di intonaco staccarsi dalle case distrutte dal fuoco come detriti in una cava di montagna, con una vasca da bagno miracolosamente intatta sospesa in precario equilibrio, né di trovare la strada sbarrata dai poliziotti mentre gli uomini delle squadre di soccorso tentavano di estrarre i corpi di pensionati sepolti. Sapevo bene che non avrei visto alberi sradicati o finestre sfondate né le pietre del selciato deformate. Non mi ero aspettato nulla di tutto ciò, ben sapendo che apparteneva a un passato vecchio di 40 anni. Malgrado ciò, non potevo ugualmente credere a quello che vedevo. Gli alberi di un verde dorato, la vecchia signora a passeggio con il suo pechinese, i bambini che sbucavano da una casa e correvano alla buca delle lettere sull'angolo, le loro grida che restavano sospese come lanugine di cardo nell'aria autunnale. Vedevo tutto ciò, tuttavia, a dispetto della chiara testimonianza dei miei occhi, continuavo a pensare che Tridib mi avesse mostrato di Solent Road qualcosa di più vero molti anni prima a Calcutta, qualcosa che non sarei riuscito a vedere neppure se fossi rimasto in quell'angolo per anni, come quando uno resta a osservare un albero per 3 mesi ma non riesce a saperne niente se perde quell'unica settimana in cui l'albero si copre di germogli. Volevo conoscere l'Inghilterra non come la vedevo adesso, ma nel suo momento migliore. Ogni luogo sceglie il proprio e non mi sembrava un caso che l'Inghilterra avesse trovato il suo durante una guerra. Nick e Ayla ci stavano aspettando nello stesso punto in cui li avevamo lasciati, all'angolo in cui Sumatra Road incrocia West End Lane. Nick stava parlando e non si accorse di noi. «Non si può veramente amare il Kuwait», stava dicendo. «Non c'è nulla da fare, salvo bere e vedere film in cassetta». «Sono molto sollevato all'idea di essere di nuovo qui. Ti sei trovato un nuovo lavoro?» gli chiese Ayla. «Oh, presto comincerò a guardarmi intorno», rispose lui. «Non dovrebbe essere un problema, ho un sacco d'esperienza». Smise di passarsi le dita fra i capelli. «Si può dire quel che si vuole del Kuwait, ma laggiù si possono fare un sacco di soldi, davvero un sacco di soldi. Niente a che vedere con le briciole che guadagnerei lavorando per una mediocre compagnia del Midlands». In quel momento ci vide ed esclamò: «Eccovi finalmente, Hai trovato la tua strada bombardata? L'ha trovata senza difficoltà, rispose Roby. Ma invece delle macerie di un'orribile battaglia, ha trovato una piccola vecchia signora che si era fatto uno shampoo azzurro e portava a passeggio il suo pechinese. In ogni caso, disse Nick, ci sei arrivato. Ora ti andrebbe di trovare la strada fino al numero 44 di Leamington Road? Posso provare, risposi. Allora va avanti tu. Era piuttosto facile sulla carta di Londra, dall'A alla Z che mio padre mi aveva portato. Conoscevo a memoria la pagina 43 di quadro 2. Leamington Road doveva trovarsi proprio dall'altra parte della strada in cui eravamo noi. Ora che avevamo raggiunto il luogo che conoscevo meglio, mi sentivo improvvisamente incerto. La strada di fronte a noi era fiancheggiata per tutta la sua lunghezza da due schiere di case di mattoni rossi allegramente fuligginose. Le case non erano così alte e spigolose come me le ero aspettate. Malgrado ciò, poiché ero certo che Leamington Road dovesse essere lì, indicai quella strada chiedendo se ero nel giusto. Sì, disse Nick, bravo, l'hai trovata al primo colpo. Attraversammo West End Lane a un passaggio pedonale e io precedetti gli altri, intento a cogliere ogni dettaglio delle decorazioni in legno sopra le porte d'ingresso, gli angoli dei bovindo che si affacciavano sui minuscoli giardini, il disegno dei cancelli in ferro battuto. In quel momento scorsi un campo da cricket in lontananza e così seppi dove era il numero 44. Diedi una voce agli altri, indicando la casa. Sorrisero nel vedermi così eccitato e quando mi raggiunsero Nick scoppiò a ridere. Sei senza dubbio un mistico orientale, disse, seguendo con gli occhi la direzione indicata dal mio dito. Ce l'hai fatta di nuovo. Quando fummo di fronte alla casa, mi sporsi oltre la siepe per guardare dentro il giardino prima che Nick aprisse il cancelletto. Il ciliegio era molto più alto di quanto pensassi. La porta d'ingresso si aprì quando arrivammo a metà del sentiero che attraversava il piccolo giardino. Mrs. Price ci aveva visti arrivare e ora stava in piedi nel vano della porta. Era una donna piccola, molto magra e curva per l'età. Anche il suo viso era minuto, ma aveva occhi grandi e sporgenti come quelli di May. Aveva un'aureola compatta di capelli grigi e lo sguardo miope, lievemente corrucciato, incideva un solco lungo la fronte. Indossava una severa gonna verde militare, una camicetta bianca e un cardigan grigio. Avevo visto molte sue fotografie, ma non mi aspettavo la sua carnagione trasparente, quasi traslucida. Anche a distanza riuscivo a vedere i circuiti delle vene a fior di pelle. Ci venne incontro a metà del sentiero, baciò Ayla e strinse la mano a me e a Roby. Mi disse che era felice di conoscermi finalmente e che era un peccato che May fosse via, sarebbe stata molto contenta di vedermi. Le aveva parlato così spesso della gentilezza della mia famiglia a Calcutta. Nick, con aria divertita, le raccontò di come li avessi condotti fin lì e le disse che sapevo del loro albero di ciliegio. «Sa, ne ho sentito tanto parlare», disse timidamente. Adesso ero imbarazzato. «Bene», disse sorridendo Mrs. Price, «dobbiamo farti fare un giro turistico, ma prima entriamo a bere qualcosa». Ci guidò nell'ingresso, mi indicò dove appendere la giacca, poi ci fece entrare in una grande sala piena di sole. «Eccoci qui», disse voltandosi verso un vassoio su cui erano disposti molti bicchieri e una caraffa. «Che cosa volete bere?» Dovette ripetere la domanda due volte prima che la udissi. Ero completamente assorto nelle cose che mi circondavano.